Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio, quinto lunedì del lavoro nel nostro programma, tema sacrosanto che è sempre più difficile toccare anche e soprattutto alla luce dei dati a dir poco allarmanti che sono stati diffusi venerdì scorso e che raccontano una situazione estremamente preoccupante anche in Italia sulla condizione del mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione ad ottobre è salito ancora e si è portato all'11,1%, il massimo dal 1999. Ancora più difficile dare resoconto del tasso di disoccupazione giovanile, salito ad ottobre al 36,5%. Fra i giovani che hanno un'età compresa fra i 15 e i 24 anni, quelli in cerca di lavoro sono 639.000 e rappresentano il 10,6% della popolazione di questa fascia d'età. Oggi però il nostro focus è dedicato a quelle persone che il lavoro lo perdono improvvisamente e si ritrovano a dover utilizzare il sistema degli ammortizzatori sociali di cui il nostro welfare dispone. Quali sono le novità in questo ambito introdotte dalla riforma Fornero, la legge 92 dello scorso giugno, entrata in vigore il 18 luglio di quest'anno? Oggi le riporta il Sole 24 Ore. Con grande dettaglio, quali sono queste novità? Tra meno di un mese, vale a dire il 1 gennaio prossimo, debutterà l'ASPI, l'assicurazione sociale per l'impiego, destinata a sostituire da subito l'indennità di disoccupazione e entro il 2017 la mobilità. Al via anche il restyling, la riorganizzazione della cassa integrazione straordinaria e l'entrata a regime della una tantum per i collaboratori a progetto. Per le imprese scatterà il nuovo contributo dell'1,4% sui contratti a termine, un contributo destinato proprio ad alimentare queste nuove forme di ammortizzatori. Un tema dunque molto delicato, perché ci tocca di nuovo ritornare a parlare delle persone che appunto non percepiscono più uno stipendio fisso, ma naturalmente per avere un'entrata regolare hanno dovuto fare ricorso a questi sistemi di ammortizzatori. In attesa speriamo di ritrovare un nuovo posto di lavoro che garantisca altro, qualcosa di più solido. Allora noi stamattina rifacciamo un punto della situazione, chiaramente come sempre anche cercando di raccogliere ed entrando in punta di piedi nelle vostre vite che vivono questi momenti appunto di difficoltà, grazie ai vostri contributi che vorremmo raccogliere come sempre all'800 24 0024 oppure scriveteci al 349 238 6666. Avete capito come funzionerà la nuova ASPI, la nuova assicurazione sociale appunto, qual è la condizione che in questo momento vi offre la vostra azienda, se è in crisi, siete in mobilità, siete in cassa integrazione, cosa cambierà per voi a partire da gennaio. Potete anche scriverci sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24, naturalmente avete anche l'opportunità di interagire con noi su Twitter @salvadanaio24. Con noi questa mattina un duetto che è ormai assolutamente consolidato per il nostro programma, Alessandro Rotaporta, consulente del lavoro, autore anche degli articoli, non solo quelli che appaiono oggi sul Sole 24 Ore, ma dei numerosissimi apparsi su questi argomenti sul Sole di recente. Dottor Rotaporta, buongiorno e bentornato. Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori. E naturalmente abbiamo reinterpellato anche l'avvocato Francesco Rotondi, partner dello studio Lab Law specializzato in diritto del lavoro. Avvocato, buongiorno e bentornato anche a lei. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. Prima di entrare naturalmente su questo tema e ad approfondirlo quanto più possibile dettagliatamente potremo fare questa mattina, adesso sentiamo un po' che cosa sta succedendo in borsa. La settimana è partita piuttosto bene per i mercati finanziari internazionali per una serie di ragioni. C'è intanto, come sapete, lo sblocco che è avvenuto da parte del Parlamento tedesco, non era un esito per niente scontato venerdì scorso, dell'erogazione degli aiuti alla Grecia. Oggi l'Eurogruppo si riunisce alle 17 per definire una volta per tutte anche le ultime perplessità rimaste sul piano di riacquisto del debito greco che sta partendo. C'è questo buyback, come si chiama in gergo finanziario. Atene riacquista i suoi titoli per circa 10 miliardi di euro e questo via libera appunto a questa operazione rasserena i mercati, al punto tale che anche gli spread sono in forte restringimento, quello tra Italia e Germania, quindi il nostro, quello di casa nostra, che ci ha fatto dormire sonni poco tranquilli in tempi recenti, addirittura stamattina sta toccando, sta avvicinandosi ai 300 punti base, livelli che non vedeva da marzo scorso, quando era scivolata addirittura fino intorno ai 280. Per cui buone notizie, la borsa guadagna lo 0,90% su Milano, Parigi più 0,7%, Francoforte più 0,4%, Londra più 0,3%, i migliori titoli di Piazza Affari Mediaset più 5 punti grazie a due buoni giudizi degli analisti di Mediobanca e di JP Morgan, Autogrill più 2,43%, Saipem più 2, Tenaris più 1,90, Unicredit più 1,56%. I titoli con il segno meno invece sono Atlantia che perde circa mezzo punto percentuale come Diasorin, Fiat meno 0,17 e su Fiat grande attesa per i dati sulle immatricolazioni italiane nel mese di novembre che verranno diffusi come sempre questa sera alle 18. Euro su dollaro a 1,30,26, adesso un po' in rallentamento rispetto al top toccato in mattinata a 1,30,47, e questo è il quadro di borsa. Noi oggi a Salvadanaio, come vi ripeto, abbiamo il nostro quinto lunedì del lavoro, stiamo indagando nella riforma del mercato del lavoro appunto che porta il nome di Elsa Fornero, tra l'altro questo è il nostro quinto lunedì, poi per dicembre ci fermeremo ma riprenderemo con grande insistenza e con grande attenzione questo argomento a partire da gennaio, ne faremo un appuntamento fisso non solo per esplorare i dettagli della riforma perché ci sono tante cose che naturalmente in 5 puntate non abbiamo potuto spiegare e raccontare, ma ci piacerebbe anche capire che tipo di opportunità ci sono nel mercato del lavoro adesso, dove possono cercare i giovani che sono i grandi, è quella grande area di cui bisogna tener conto, di cui bisogna preoccuparsi di più, perché come vi ho appunto raccontato anche all'inizio il tasso di disoccupazione giovanile è drammaticamente salito di nuovo ad ottobre al 36,5%, quindi continueremo con questo nostro impegno da gennaio. Oggi però, come vi dicevo, appunto facciamo un focus sul nuovo sistema degli ammortizzatori sociali. Sentiamo un po' quale film ci accompagna oggi. Buongiorno, senta, io dovrei iscrivermi nelle liste di disoccupazione giovanile, mi hanno dato questo modulo, però non so come si fa a riempirlo, potrebbe lei... È molto semplice. Grazie. Modulo, io sottoscritto, nome, cognome, eccetera, eccetera, eccetera. Dicchia! Secondo, le cose, secondo la legge della disoccupazione giovanile, quella per cui capisce siamo tutti qui, e lei conoscerà benissimo, in fede. Come, scusi? È molto. Sì, cioè io dovrei scrivere modulo. Modulo, certo. Io sottoscritto... Nome, cognome, diglia! Chiaro. Secondo la legge per cui... Non capisce, lo capisce, siamo tutti qui, la mattina al sera, in fede. Fatto. Precario il mondo, flessibile la terra che sto pestando, atipica la notte che sta arrivando, volatile la polvere che si sta alzando. Daniele Silvestri con Precario il mondo, il film che abbiamo scelto invece questa mattina, chissà in quanti di voi se lo ricorderanno. Marco Lombardo, che non era neanche nato, non se lo ricordava, non l'aveva mai visto, ed era Ad Ovest di Paperino, un film è uscito non mi veniva la parola nel 1982, scritto, diretto ed interpretato da Alessandro Benvenuti insieme, e questa era una celeberrima appunto parte di Francesco Nuti, che si reca all'ufficio di collocamento e tenta di iscriversi, pur non essendo poi giovanissimo, alle liste di disoccupazione giovanile, ed è un procedimento molto complesso, come avete sentito. Alessandro Rotaporta, lei questo film l'aveva visto, se lo ricorda? No, non l'avevo visto, l'ho sentito con voi questa mattina. Ma per la verità questa scena non me la ricordavo neanche io, l'abbiamo recuperata su internet cercando un po' di trovare quale film si potesse meglio adattare al tema di oggi. Ce ne sono tanti, per la verità ogni decennio porta con sé un momento di crisi, è un film che magari racconta proprio questo momento difficilissimo in cui molti lavoratori si possono trovare, l'azienda che va in crisi e se va bene ci mette in cassa integrazione temporaneamente, se no scattano le liste di mobilità fino a provvedimenti ancora più drastici. Alessandro Rotaporta, lei appunto ne scrive a lungo questa mattina sul Sole 24 Ore, per la verità, focalizzando il suo intervento sui tasselli che ancora mancano. Poi per la verità ci torneremo. Le chiedo però intanto subito un suo giudizio su questa nuova ASPI, l'assicurazione appunto sociale per l'impiego, che nell'ambito del riordino degli ammortizzatori sociali diventa, come viene definita dalla collega Francesca Barbieri, l'erede unica dei sussidi di disoccupazione e mobilità. È un buon sistema quello che partirà da gennaio, a suo avviso? Ma è un sistema che cambia radicalmente l'impostazione attuale, e purtroppo, come ha detto lei, non è un film, quindi ci troviamo davvero a fronteggiare una realtà difficile. Bisogna partire dal presupposto che la riforma deve fare i conti con le risorse a disposizione, che purtroppo i fondi, lo sappiamo, per il finanziamento pubblico di questi strumenti sono scarseggiano, e soprattutto diciamo che è una riforma che guarda di più, almeno qui c'è una delega aperta al governo, guarda di più alle politiche attive, e quindi si spera, si auspica che queste politiche attive vengano veramente attuate con vigore, cosa che negli ultimi anni non è stato fatto, per favorire la ricollocazione. Detto questo, quello degli ammortizzatori sociali è un panorama complesso che innanzitutto occorre creare un distinguo, cioè un distinguo tra tutti quegli strumenti che supportano il lavoratore in caso di perdita involontaria del posto di lavoro, quindi classico esempio il licenziamento, fine del contratto a termine o l'ipotesi ad esempio di dimissione per giusta causa, e questa è una prima area. Poi c'è un'altra macro area che ricomprende quei sussidi che invece vengono erogati in costanza di rapporto di lavoro, quindi situazioni di crisi e coperte dagli ammortizzatori sociali, classico esempio quello della cassa integrazione. Allora, per quanto concerne, sì, se posso sì, sì, certo, concluda, sì. Per quanto concerne il discorso ASPI, quindi ammortizzatore che copre la perdita del posto di lavoro, qui è vero che si ha un ammortizzatore che diventa universale e che a regime nel 2017 andrà a sostituire anche l'indennità di mobilità, quindi da un lato copre una platea più ampia di potenziali soggetti, quindi ad esempio gli apprendisti che oggi erano di fatto, se non con forma in deroga, tagliati fuori, però dall'altro lato detta dei requisiti più stringenti per lo status di disoccupazione, perché ad esempio viene eliminato il requisito, diciamo la condizione reddituale, che fino a un certo reddito consentiva 8.000 euro quest'anno di mantenere l'iscrizione alle liste, cosa che invece con la riforma lo status di disoccupazione diventa incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro, per cui diciamo che ci sono luci e ombre, poi magari la approfondiamo. Senz'altro. Avvocato Francesco Rotondi, vengo anche a lei. Noi, come abbiamo anche già puntualizzato più volte nelle trasmissioni passate dedicate alla riforma del mercato del lavoro, vorremmo fare meno commenti possibili, appunto esprimere meno giudizi possibili, e soprattutto andare alla ciccia delle questioni e spiegare come funzionano questi nuovi sistemi. Però per le persone come i consulenti del lavoro e i legali appunto specializzati su queste tematiche, che ogni giorno si scontrano con la realtà, perché evidentemente a loro si rivolgono aziende che devono provvedere a questi sistemi, mettere magari in mobilità, in cassa integrazione lavoratori, oppure lavoratori stessi che si ritrovano in queste condizioni, siccome questi professionisti si scontrano appunto e affrontano ogni giorno queste problematiche sul campo di battaglia, allora forse è utile anche sentire il loro giudizio su queste novità. E so che l'avvocato appunto Rotondi ne ha uno molto preciso, non tanto sul fatto che il nuovo sistema appunto torna a focalizzarsi su chi il lavoro lo aveva e lo perde improvvisamente, che sicuramente va tutelato nella massima misura possibile. La riforma manca un'occasione, chissà che questi contorni non vengano meglio precisati in futuro, nei confronti di chi il lavoro non lo ha mai avuto e fa fatica ad entrarci. In questo caso c'è una platea molto vasta di persone che non sono tutelate in nessun modo. Avvocato Rotondi. Sì, direi che al di là del giudizio positivo o meno sulla riforma, io credo che sia fallito uno degli obiettivi che si doveva assolutamente centrare, cioè quello di portare una tutela a coloro che nel mondo del lavoro non ci sono ancora entrati oppure lo hanno perso ormai da tanto tempo, perché non ricordiamo che c'è una condizione per la percezione, per esempio, dell'ASPI, che è quella di avere un minimo contributivo almeno nel biennio precedente al momento in cui si cerca di iscrivere. Quindi io credo bene la riforma, bene o con alcune cose da sistemare, ma ahimè la flexicurity rispetto a quella che era il modello a tendere non ha portato nulla di nuovo. Ci spiega questo termine che viene utilizzato molto spesso, ma i nostri ascoltatori, avvocato, sì, no, indispettiscono, però ci chiedono di essere chiari quando utilizziamo un gergo, appunto, che esprime dei concetti finanziari ed economici ma che non sono esattamente italiani. Che cosa si intende con flexicurity, con flessicurezza? Esatto, si intende un matching, cioè trovare una possibilità di far dialogare le due diverse esigenze, che sono una rappresentata dall'esigenza del datore di lavoro di avere più flessibilità nell'utilizzo dei lavoratori, e invece la sicurezza che quei lavoratori non destinatari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con le conseguenti sicurezze devono sopportare. Quindi riuscire a trovare un modo attraverso il quale, vuoi attraverso una contribuzione statale, vuoi attraverso, come nel nostro caso, una contribuzione anche del privato datore di lavoro, riuscire a coprire e dare sicurezza a quei lavoratori che non hanno una continuità di percezione di reddito. Tra l'altro, per la prima volta questo termine è stato utilizzato in un dibattito politico nei Paesi Bassi nei primi anni 90, non è farina del mio sacco, ho ritrovato molto velocemente stamattina queste informazioni perché non lo sapevo. In questa area la deregolamentazione del mercato del lavoro coincide con il miracolo olandese, nel quale il tasso di disoccupazione è diminuito considerevolmente, in modo simile anche la Danimarca ha praticato con successo la deregolamentazione del mercato del lavoro, che ha spinto gli studiosi e i politici a credere, leggo testualmente, che la flessibilità dell'occupazione migliori la competitività delle aziende, come anche il tasso di produzione che a sua volta anima il mercato del lavoro. Però chiaramente i tessuti economici e produttivi sono molto diversi, non è detto che una regola che vale magari nei Paesi Bassi o in Danimarca possa essere appunto applicata con la stessa possibilità di successo anche in un paese come il nostro, dove ci sono tante piccole e micro imprese che magari hanno esigenze appunto diverse. Laureata precaria, con lo zaino pieno di progetti un po' campati in aria, è il secondo tempo della storia di una studentessa universitaria. Tesi di laurea col pancione, 110 lode con i complimenti della commissione. Eh sì, ormai sapete che siamo accompagnati dal punto di vista delle colonne sonore da tutte le canzoni che raccontano un po' la condizione di precariato dei giovani, soprattutto, anche se oggi non è proprio questo il tema al centro del nostro quinto lunedì del lavoro di Salvadanaio, perché parliamo del riordino degli ammortizzatori sociali, visto che il 1 gennaio debutterà l'ASPI, l'assicurazione sociale per l'impiego, l'erede unica dei sussidi di disoccupazione e mobilità. Alessandro Rotaporta, ancora buongiorno. Direi che per spiegarla bene ci serve il contributo di un ascoltatore. Oggi abbiamo scelto Ferdinando da Arezzo. Ferdinando, buongiorno. Buongiorno. Sì, ci racconti. Io da un anno e mezzo sono a terzo lavoro, ho 58 anni, sono separato, due figli, non percepisco più nessuna disoccupazione, il lavoro non si creava, che devo fare? Disoccupato da un anno e mezzo, dove lavorava Ferdinando? In che settore, dove era impiegato fino all'anno e mezzo fa? Nel settore edile, sono però specializzato in macchine a movimento terra. Grazie Ferdinando. Allora, magari aspetti lì se i nostri consulenti le volessero fare delle domande. Un settore in fortissima difficoltà, quello edile, perché sappiamo bene intanto che il mercato immobiliare si è quasi completamente fermato, le compravendite vanno avanti, ma diciamo che le nuove costruzioni invece arrancano un po' di più, anche perché c'è anche la prospettiva che tutti gli incentivi fiscali si fermino. In ogni caso, appunto, anche le famiglie comprano meno case, c'è tutto uno stop di questo comparto che, come avete sentito, appunto, ha avuto delle pesanti ricadute su tutti i livelli occupazionali. Alessandro Rotaporta, vengo a lei, 58 anni, il nostro ascoltatore da un anno e mezzo disoccupato. È questo l'arco temporale massimo entro il quale un lavoratore che perde il suo posto di lavoro ha diritto alle garanzie di ammortizzatori appunto sociali? Dopo questo periodo finisce tutto? Con la riforma, se vogliamo, quando sarà a regime, sempre un anno e mezzo, quindi nel caso del signore che ha più di 55 anni con l'ASPI a regime, quindi nel 2000, parliamo di 2016, ci saranno 18 mesi di copertura, quindi non più di un anno e mezzo. Purtroppo per periodi così lunghi, come dicevo prima, l'auspicio è che vengano rafforzate quelle politiche, come diceva bene anche l'avvocato Rotondi prima, che aiutino la ricollocazione, perché poi il sussidio ovviamente oltre un certo lasso temporale finisce, non c'è più copertura. Tra l'altro, come si quantifica il sussidio al quale un lavoratore che si trovasse nelle condizioni appunto di Ferdinando deve percepire? Quindi che relazione c'è tra l'ultimo stipendio percepito e il primo assegno, che è il frutto appunto dell'ammortizzatore sociale, il primo assegno ASPI, chiamiamolo così, quello del futuro? Allora, c'è un parametro che ha fissato la legge 92, quindi la riforma, in merito al conteggio, e mi spiego meglio. Se la retribuzione di riferimento è pari o uguale a 1180 euro, l'ASPI è pari al 75% di questo valore. Tra l'altro è più alta rispetto al precedente regime, giusto? Sì, la percentuale è più alta rispetto al regime. C'è da tenere conto, al di là del conteggio del trattamento, che comunque c'è un massimale anche con la nuova formulazione dell'ASPI, che è quello, un massimale che viene rivalutato annualmente, che attualmente nel 2012 questo massimale è pari a 1117 euro, quindi oltre a quello comunque il sussidio non va. Ritornando al calcolo, quindi se la retribuzione è uguale o inferiore a 1180 si applica il 75% di questa cifra, se è superiore si aggiunge il 25% dell'importo che supera quella soglia. Poi è previsto che dopo sei mesi c'è un taglio del sussidio del 15%, che viene ulteriormente ridotto alla fine del primo anno di percezione del sussidio di un altro 15%. Tra l'altro, prendendo a spunto il caso di Ferdinando D'Arezzo, che appunto ha 58 anni, abbiamo ricordato come per i lavoratori under 50, per gli over 55, per chi ha sopra i 55 anni, la protezione è garantita fino ai 18 mesi. Per gli altri scaglioni di età invece Rotaporta che cosa cambia? Allora, c'è un periodo transitorio che non sto qui a elencare, perché dal 2013 al 2015, a seconda dell'età, ci sono diverse durate di intervento, quindi bisogna andare a vedere in quale fascia ci si colloca. Comunque a regime la durata sarà 12 mesi per i lavoratori di età inferiore ai 55 e 18 mesi per i lavoratori di età pari o superiore ai 55, quindi quello sarà a regime. Ad esempio al 2013 lo scaglione invece è 8 mesi per i lavoratori under 50 e 12 mesi per quelli da 50 anni in su, quindi ci sono delle varie fasi per arrivare poi al trattamento a regime nel 2016. Avvocato Rotondi, le faccio, visto che prima abbiamo parlato anche del sistema dei Paesi Bassi, dai quali abbiamo mutuato la parola appunto flexicurity, sentiamo appunto che cosa ci chiede a questo proposito un ascoltatore, Antonio da Catania, che è molto interessato proprio a questa questione di natura internazionale, guarda quello che succede in altri paesi. Antonio, buongiorno. Buongiorno, niente, io poc'anzi sentivo questa trasmissione, si parlava di queste idee, queste proposte che ci sono nei Paesi Bassi di flessibilità, e adesso ricollegandomi anche a quello che diceva poc'anzi il precario, dico, se questa possibilità di flessibilità potesse essere appunto, come dire, recepita bene dagli imprenditori e si fa una proposta e si vede che nel primo anno, nei primi sei mesi, l'imprenditoria risponde bene, si potrebbe pensare a una flessibilità a fin di bene, ecco, non per licenziare, ma per dare una speranza a queste persone che è giusto che tornino a lavorare, non perdano le loro competenze. Se qualcun altro lo fa in Europa, dico, l'Olanda, i Paesi Bassi cosiddetti sono all'avanguardia, sono andati avanti, hanno fatto delle liberalizzazioni su tutti i fronti, delle leggi particolari alle quali tutti guardiamo certe volte con stupore, magari proprio questa cosa un po' meno particolare che la flessibilità, ripeto, se l'imprenditore risponde, cioè io assumo 3-4 giovani o meno giovani, se ho delle agevolazioni, io penso che siamo in una situazione di emergenza, i competitori dicono un po' tutti, sì, ignorantemente, compreso io, che sono i cinesi che lavorano dalla mattina alla sera, che dobbiamo fare? Aspettiamo un po' di massaggio cardiaco, penso ci possa volere. Se questa cosa, al di là di gridare alla flessibilità, che brutta, invece potesse diciamo aiutare il mondo dell'imprenditoria ad assumere, forse con una cosa semplice si risolverebbero un problema grande quanto una montagna, che sta diventando talmente grande che poi schiaccerà, invece non ci penserà a questa cosa. Dico, prendiamo spunto, io dico sempre, facciamo copiato, prendiamo spunto da chi lo fa in Europa, dice guarda, lo fanno loro, lo facciamo pure noi. Mm-hmm. Chi potrebbe dire no? Antonio, lo so, ha ragione, no, è stato una responsabilità grossa chi dice no. Certo, questo è il grande dibattito che ha accompagnato anche la formulazione della riforma Fornero, proprio intorno al tema della flessibilità. Ci sono state delle prese di posizione anche molto rigide fra chi lo percepisce nei termini sbagliati. È un tema davvero delicato, come più volte abbiamo detto anche nel corso delle altre trasmissioni. Adesso chiederò all'avvocato Rotondi cosa pensa del suo giudizio. Intanto anticipo ai nostri ascoltatori una buona notizia sul fronte mercati. Per chi si è appassionato all'andamento dello spread degli ultimi mesi, sappiate che è sceso a 300 punti, per cui stiamo ritornando e consolidando un po' i livelli che non vedevamo da marzo. Una buona notizia. Avvocato Rotondi, allora, è applicabile, se ce lo può raccontare in estrema sintesi, se lo conosce, fino a che punto lo conosce, il sistema olandese anche al tessuto economico produttivo italiano? Ma guardi, non è possibile applicarlo per una semplice ragione, perché il sistema del olandese, ma può anche essere quello danese, è un sistema che evidentemente deve trovare un radicamento anche nel tessuto socio-economico del paese stesso. Cioè, è facile parlare di flessibilità e sicurezza in un paese che anche sia geograficamente che a livello di numero di abitanti è in grado di riassorbire con estrema facilità quello che può essere un problema sorto in termini di occupazione presso un'azienda. Qui il tema nel nostro paese è un po' più articolato e più delicato. Mm-hmm. Però l'ascoltatore Antonio ha centrato un po' il tema. Io credo che non ci siano ostacoli insuperabili, ma bisogna essere tutti uniti nel perseguire l'obiettivo. Non bisogna demonizzare la flessibilità, che potrebbe essere anche uno stato di fatto ormai radicato nel mercato, non nel diritto, nel mercato, e non bisogna perdere quei principi di sicurezza che a livello costituzionale, quindi della Costituzione, e a livello anche umano e anche di Costituzione europea, non dobbiamo assolutamente trascurare. Mm. Detto questo, però, mi permetta sì, di fare certo, un'osservazione. Certo. Non bisogna però neanche arrivare a certe situazioni assurde. Voglio dire, l'ascoltatore di prima nell'edilizia, nel campo dell'edilizia, noi non possiamo prendere questa situazione e pensare che non ci siano tutele, perché così non è. Anzi, l'edilizia ha una indennità di disoccupazione speciale proprio per quel settore, è la indennità di disoccupazione edile. Rimarrà ancora in essere fino al 1 gennaio 2017, quindi non sarà sostituita dall'ASPI, ed è un'indennità che prevede delle coperture che arrivano fino a 9 mesi, al termine di quella addirittura altri 9 mesi per chi ha più di 50 anni di disoccupazione ordinaria. Voglio dire, il tema vero è che sono passati N mesi e non si è ricollocato. Io qua non sto a sindacare se è colpa del mercato o colpa dell'individuo, ma è questo il tema reale. Noi non possiamo permettere che una persona resti fuori dal ciclo produttivo, quindi dall'impoverimento anche della propria professionalità per N mesi. Questo non è assolutamente e infatti chiaramente non nel caso specifico bisognerebbe conoscere profondamente la storia del nostro ascoltatore sulle motivazioni per cui effettivamente magari non ha potuto spostarsi, magari non c'erano nella sua città, nella sua area le condizioni per poter essere riassorbito dal mercato del lavoro, magari da un'altra parte era necessaria la sua professionalità, magari lui non ha voluto appunto prendere appunto questa occasione, oppure per la verità davvero magari a quest'età poche aziende sono disposte a fare una scommessa su anche la sua esperienza, perché può essere elevatissima chiaramente a quest'età, magari un po' meno vigore fisico ma sicuramente grande preparazione e grande esperienza. Mi interessa appunto questo discorso fatto anche su questa speciale tutela per questo lavoratore. Mi chiedo allora come mai lui ci abbia detto, avvocato Rotondi, che da un anno e mezzo ritiene di aver terminato tutta la rete di protezione che poteva avere a disposizione. Chi è che gli deve dire che in realtà il settore edile, per esempio, ha forme un po' più rafforzate di tutela per chi è fuori dal mercato del lavoro? L'azienda per il quale lavorava, per chi? Sì, un attimo, adesso vado con il traffico. Avvocato Rotondi. Sì, beh, è evidente che lavorando per quell'azienda, nel momento in cui si dovesse trovare al di fuori perché è licenziato o in situazioni particolari, è con l'azienda che dialoga su quali tipi di domande devono essere svolte all'ente preposto. Oppure il sindacato al quale si potrebbe rivolgere, oppure un consulente. Però il rapporto con l'azienda normalmente è molto, molto stretto. Molto stretto, ovvio. Quindi il motivo per cui lui da un anno e mezzo non ha più nulla potrebbe anche essere perché ha esaurito tutti i trattamenti già percepiti. Piacere, Luigi delle bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe perché lotto tutte le ore, sono un eroe perché combatto per la pensione, sono un eroe perché proteggo i miei cari. Una canzone che ci ha fatto tanto compagnia anche e soprattutto nella lunga battaglia condotta da Sebastiano Barisoni e Oscar Giannino con Disperati Mai, ma naturalmente anche le persone delle quali parliamo noi questa mattina a Salvadanaio sono persone disperate. Se perdono il posto di lavoro, non hanno più un reddito che arriva appunto dalla propria professionalità, ma un assegno che arriva in qualche maniera, per fortuna, poiché c'è dagli ammortizzatori sociali che esistono nel nostro paese e che adesso vengono riordinati appunto con l'avvento della nuova ASPI a partire da gennaio. C'è una testimonianza di un'ascoltatrice molto giovane, una ragazza di 27 anni che ci scrive. Ramone ci racconta: il suo contratto scade, ci racconta, il mio contratto scade il 31 dicembre di quest'anno. Ho lavorato 12 mesi più ho avuto un rinnovo di 6, quindi lavoro presso l'attuale azienda dal 1 luglio del 2011. Il contratto però non mi verrà rinnovato perché sono state accorpate alcune mansioni lavorative. Ho 27 anni, avrei diritto alla disoccupazione dal 1 gennaio, ma con l'ASPI come funziona questo passaggio? Rota Porta ci aiuta con Ramona? Sì, le regole sono quelle che ho elencato prima e nel caso dell'ascoltatrice ha i requisiti di accesso all'ASPI che sono appunto aver avuto almeno un anno di contributi nel biennio precedente al periodo di disoccupazione, quindi mi sembra che la situazione esposta possa dare tranquillità della percezione del sussidio da parte dell'ascoltatrice. Per quanti mesi potrà percepire questo sussidio? Da 8 a 12? Tempo massimo? Potrà percepire un massimo di 8 mesi. Massimo di 8 mesi. Per un importo dello 75% dell'ultimo stipendio, dello stipendio medio percepito in questo anno e mezzo di lavoro? Sì, per l'importo del 75% se la retribuzione di riferimento dell'ascoltatrice è pari o uguale a 1180 euro, altrimenti si aggiunge l'eventuale 25% della parte che va oltre i 1180. A chi deve fare domanda, Ramona? È in automatico l'azienda che pensa a lei, appunto, a chi deve inoltrare la domanda per avere l'assicurazione sociale? No, la domanda deve essere inviata o attraverso i canali telematici del sito IMSS, quindi prendendo il PIN come cittadino e richiedendo appunto l'ammortizzatore direttamente all'IMSS attraverso il canale web, perché ormai non è più possibile fare le domande in modalità cartacea, o altrimenti si può rivolgere ad un CAF, magari un centro assistenza patronato, certo. Quindi Ramona, mi raccomando, poi soprattutto l'augurio è che questi mesi in cui ha questo ammortizzatore a disposizione possano essere impiegati con fortuna per lei per trovare appunto un'altra occupazione. Allora, tra l'altro, avvocato Rotondi, noi stiamo parlando dell'ASPI che entra in vigore a partire dal 1 gennaio per tutti quei lavoratori che come Ramona rimarranno appunto senza lavoro, ed è qualcosa di diverso dalla cassa integrazione, che invece è quell'assegno che viene percepito da quei lavoratori che lavorano in un'azienda che vive uno stato temporaneo, speriamo, di crisi, poi non è detto che vada a finire bene, però la cassa integrazione è diversa dall'assegno appunto percepito attraverso il nuovo sistema ASPI. Certo, perché la cassa integrazione presuppone la permanenza del rapporto di lavoro ed è un periodo nel quale il datore di lavoro viene sostituito nella erogazione della retribuzione e della contribuzione in parte, pensando che possa superare quel momento di crisi o di difficoltà e poi rioccupare integralmente o in percentuale i lavoratori. Quindi è un sistema di ammortizzatore sociale che è rivolto a un lavoratore, non a un disoccupato. E questo è un dato molto, molto importante. Molto importante, ovvio. Tra l'altro non abbiamo ricordato anche un altro aspetto, l'ho ricordato solo molto velocemente all'inizio, che anche le nuove modalità di funzionamento dell'ASPI, che eroga appunto questi sostegni alle persone che rimangono senza lavoro, vengono praticamente l'ASPI nella sostanza, avvocato Rotondi, viene alimentata da contributi delle aziende stesse. Sì, anche da contributi delle aziende stesse, ci sono dei prelievi che vengono in parte aumentati sui contratti a termine, in parte perché derivano da una sorta di contributo che il datore di lavoro dovrà versare in presenza di ogni licenziamento, e poi ovviamente in parte dallo Stato, dal pubblico. Mimmo, sì. No, dicevo che la differenza, quindi lo spartiacque è: abbiamo ancora un posto di lavoro e siamo in presenza quindi della cassa integrazione ordinaria o straordinaria, o abbiamo perso il posto di lavoro, abbiamo l'ASPI, oppure la mobilità, l'indennità di mobilità, se invece il licenziamento è avvenuto dopo un licenziamento collettivo. Allora io ho Matteo e Mimmo, volevo sentire Mimmo da Matera molto rapidamente perché siamo in chiusura. Matteo, le chiedo di perdonarci e di scriverci se vuole, sono due casi molto interessanti e non riesco a dar tempo ad entrambi. Mimmo, buongiorno. Buongiorno. Sì. Mimmo da Matera, grazie per l'opportunità. Veloce che stiamo chiudendo, sì. Ho 56 anni e faccio il trasportatore da 25 anni, sono soggetto a partita IVA. Sto per chiudere l'attività, dunque sono vecchio per trovare un altro lavoro e giovane per andare in pensione grazie alla Fornero. C'è qualche possibilità per me, qualche aiuto? Allora, rotta porta, 10, 20, 30 secondi di tempo per spiegare, insomma, per i lavoratori a partita IVA. Qua abbiamo fatto tutto il tema delle protezioni sociali per i lavoratori dipendenti fondamentalmente. In questo caso che cosa rispondiamo? Rispondiamo purtroppo che appunto queste tutele che abbiamo elencato riguardano soltanto i lavoratori dipendenti, con una tutela sui co-co-co, si dice, l'accennava lei prima, la messa a regime dell'una tantum, del sussidio una tantum per le forme di collaborazione, però per nel caso del lavoro autonomo non è prevista, nella perdita del lavoro autonomo non è prevista nessun tipo di tutela da questo regime. Risposta brutale per il nostro Mimmo, che naturalmente speriamo invece possa essere, grazie alla sua partita IVA, ricollocato magari da un'altra azienda a cui può prestare la sua professionalità raggiunta in questi anni. Non riusciamo ad andare avanti, ma ci ritorneremo su questi argomenti, abbiate pazienza, il tempo è sempre tiranno. Grazie ad Alessandro Rotaporta, all'avvocato Francesco Rotondi, grazie a Marco Lombardo e a Marco Ferronato per l'assistenza tecnica. Noi torniamo a Salvadanaio domani con ancora l'IMU e prepariamoci alla scadenza del 17 dicembre. Buona giornata.